E già il sole era calato ed il grano era falciato e al profumo della terra ti eri già lasciata andare. Dicevi tu, dolce amore mio, tu, grande amore mio, non lasciarmi, tu non puoi. Poi il tuo volto mezzo tinto ritornava quasi bianco e il tuo sguardo di bambina diventava quasi stanco. Dicevi no, fronte ferita. Deserto enorme.